Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. In gravescente etate, non iam aptas esset monus petrinum eque administrandum. Chiedo perdono al Signore per quello che sto per fare e non so se Lui potrà perdonarmi. Io però devo parlare a Lui e a voi con sincerità. In questi giorni ho pensato molto a voi e purtroppo ho capito di non essere in grado di sostenere il ruolo che mi è stato affidato. Io sento di essere tra coloro che non possono condurre, ma devono essere condotti. In questo momento posso dire soltanto, pregate per me. La guida di cui avete bisogno non sono io, non posso essere io. Questa mattina ho preferito aprire la trasmissione con la fiction rispetto alla realtà, per quando la realtà assume dei toni inimmaginabili per ogni realistico racconto del quotidiano. Prendiamo a supporto il racconto, il romanzo, la profezia attraverso il film, per definire probabilmente con un tono che sarebbe stato quello che tutti si sarebbero aspettato rispetto al Papa dimesso, che in fondo è il grande argomento. Ieri da mezzogiorno in Italia, ma penso in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, non si parla d'altro. All'uscita della metropolitana già sentivo le persone allarmate per quello che era successo. Ho visto subito persone correre verso San Pietro, verso il luogo fisico per cui normalmente legato a un fatto emotivo che interessasse la figura di un papa, ho visto correre persone soltanto quando un papa muore o quando un papa viene eletto. In realtà in questo momento c'è qualcosa che l'emotività generale rispetto alla figura della Chiesa, all'istituzione della Chiesa, alla figura del papa, ancora non sa ben elaborare. Un papa che si dimette. Un papa che non è più papa ma ancora rimane fisicamente, esiste. Un papa che, di cui già questa mattina i giornali mostrano l'eremo di suore di clausura proprio a ridosso delle mura leonine, in cui andrà con le sue badanti, con padre Georg e con tutta la sua famiglia. È qualcosa di molto difficile da definire, da contenere per l'immaginario popolare, per la fede popolare. Abbiamo finora sentito illuminati pensatori a riflettere sugli aspetti più importanti riguardo a questa decisione, lo faremo questa mattina. Ma quello che più mi interesserà è capire come avete preso voi questo tipo di notizia. Per qualcosa che difficilmente rientra nei canoni dell'immaginario, lo vedo dallo sbarellamento totale poi di quelli che sono gli interventi. Sto leggendo gli sms davanti a me, non vedo altro che fare riferimenti alle profezie di Malachia, al Papa Nero, alla fine del mondo, ai cosacchi con i cavalli. Improvvisamente, quando non esiste più nulla di razionale per definire comunque quello che è il fantastico, irrazionale, meraviglioso disegno della fede, si ricorre agli aspetti più superstiziosi. Le dimissioni di questo Papa vengono raccontate e pensate come qualcosa che sottenda chissà quale mistero di ordine civile, legato alle cronache, legato ai grandi eventi che hanno turbato l'immagine della Chiesa in questi ultimi anni, o anche legato a quello che è di più fantastico, fantasioso, superstizioso, legato alla stessa istituzione. 800 24 00 24, cosa avete pensato, cosa state pensando di fronte al Papa dimesso? Carlo Maroni, buongiorno. Pronto? Eccomi, sì, mi sento bene. Carlo Maroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Fra l'altro, tu hai appena pubblicato un romanzo che si intitolava Le mani sul Vaticano, edito da Rizzoli, che anche lì c'è una storia di un papa. Come vedi, c'era qualcosa nell'aria, perché vuoi il film di Nanni Moretti, vuoi un'infinità di altri segni, anche tu che hai scritto romanzo, c'era nell'aria questo papato, sarebbe stato qualcosa di singolare rispetto a tutto quanto quello che noi storicamente ricordiamo? Sì, sicuramente era un papato che stava mostrando i segni della sua fine, non fine inteso proprio come pensiamo possa finire un governo, però diciamo i segnali che Ratzinger stava serrando le fila per arrivare in qualche modo a una resa finale c'erano. C'erano stati segnali che oggi poi riletti alla luce della decisione di ieri sono ancora più chiari: il concistoro, la nomina dei cardinali a novembre in attesa, la nomina del suo segretario a vescovo e quindi in qualche modo blindando un po' la curia. Però si è un po' comportato come un amministratore delegato che sta per andarsene, che nomina i suoi fedelissimi lasciando comunque un seguito nell'azienda. Lasciando un seguito nell'azienda, ma anche un segnale non solo appunto di potere, perché poi se c'è un Papa lontano da queste logiche, lo ha dimostrato, è stato lui, proprio perché permettiamocelo di dire, un po' il caos della curia di questi anni ha dimostrato che lui non si interessava purtroppo di quello che accadeva sotto di lui. Ma c'è per esempio una voce che sta girando ora molto forte, e che da qui al 28 il Papa possa dare alle stampe la sua quarta enciclica esattamente sulla fede, e questo potrebbe essere veramente un atto fortissimo, una sorta di testamento spirituale che più di così non potrebbe essere, lasciandolo appunto al futuro Papa e alla futura Chiesa. Questo è però il segnale, che questo papato avesse dei segni chiari, lo si vedeva non solo dalla salute ma anche proprio dal suo atteggiamento. Beh, però guarda, tutti i papi hanno avuto, diciamo, il Papa viene eletto una persona anziana, quindi è logico che si porta dietro tutti gli aspetti fisici legati all'età avanzata. Di solito i papi anziani facevano una vita più ritirata, viaggiavano un po' meno. Non voglio fare i paragoni col Papa precedente, però gli ultimi periodi del suo pontificato l'ha fatto in una condizione di estrema difficoltà, si affacciava alla finestra di San Pietro, non riusciva a parlare. Oggi Jacques Le Goff, uno storico francese, su Repubblica fa un paginone, dice: abdica come re, una rivoluzione, quel trono vuoto dopo 600 anni. In realtà questo Papa sta ottenendo una sorta di tipica glorificazione di quando muore un Papa, l'altro era santo subito, poi se lo sono tutti dimenticati, ancora in vita, ha fatto un gesto che in realtà gli permette di passare alla storia rimanendo in vita, vedendo egli stesso, leggendo i giornali e osservando il grande fenomeno mediatico della beatificazione in vita del Papa. Se vogliamo essere cinici, però c'è anche questo aspetto. C'è un po' questo aspetto, però la grandezza di questo gesto è un gesto di grande umiltà, ma allo stesso tempo di straordinaria, ora non per glorificarlo a tutti i costi, ma è veramente di straordinaria grandezza, perché indica qual è anche la strada futura della Chiesa, una Chiesa che può ridiscutere se stessa mentre è in quel momento proprio in vita. Ora io non sono un teologo, però c'è un forte significato in questo, l'uscita di scena è, come dire, una traccia che segnerà i futuri pontificati, al di là delle profezie di Malachia, secondo la quale questo sarebbe il penultimo. Sì, il penultimo. Già mi stanno scrivendo: non fate un Papa nero, sennò sarà l'ultimo, come se noi potessimo decidere. Ma per quanto se ne sa, è ben difficile che ci sarà un Papa nero, perché i candidati non sono, pare, proprio, diciamo così, che non riscuotono, pare, insomma. Non sono quelli in pole position in questo momento. No, assolutamente, cioè nel Sacro Collegio. Però diciamo che, nella storia moderna dei papi, che è quella che noi ricordiamo, diciamo che quella di cui abbiamo testimonianze visive, quelli di prima appartengono a una storia un po' più remota, è un fatto veramente clamoroso. I papi che si sono dimessi sono stati sei alla fine nella storia della Chiesa, e l'ultimo mi sembra che è nel 1400, ne sono passati di anni. Quindi questo Papa che ha restaurato alcuni elementi esteriori, ha anche restaurato l'idea che un Papa potesse dimettersi, che è contemplato dal diritto canonico. Certo, ma guarda che lui oggettivamente è stato dipinto dall'inizio del suo pontificato come il Papa guardiano, il pastore tedesco, il cane da guardia della Chiesa. Si è rivelato esattamente il contrario su quasi tutto, sulle questioni teologiche sicuramente, ma anche in questo caso è stato straordinario innovatore. Questo un po' va riconosciuto a tutti i suoi detrattori. Non sarà un annunciatore della Chiesa Universale, non sarà una rock star, questo è un fatto, diciamo, ormai acclarato. Lui stesso l'ha riconosciuto in una storica dichiarazione, dicendo: io sono diverso dal mio predecessore, è inutile che vi aspettiate da me che faccia, diciamo così, dei gesti particolari o clamorosi. Però poi l'ha fatto. Beh, più clamoroso di questo. Più clamoroso di questo non se ne poteva pensare. E quindi evidentemente l'innovazione della Chiesa passa attraverso anche questi gesti, che a volte li si vedono un po' in controluce, questa volta sono proprio sotto i riflettori, in maniera così clamorosa. Sentiamo, Carlo, la voce di qualcuno degli ascoltatori, così voglio anche recuperare un po' quello che è il sentire comune, anche se mi hanno già scritto: Nicoletti sei un maledetto baciapile, la maggior parte degli italiani è atea e se ne strafrega risalirà al soglio. Ma ammesso che non concesso che sia atea, è un fatto di interesse generale comune, al di là dell'aspetto della fede. Questa mattina tengo ben separato l'aspetto di trascendenza legato al Papa. In questa mattina non lo voglio contemplare semplicemente l'aspetto pubblico, l'aspetto sociale, l'aspetto legato al fatto. Giancarlo. Ciao, Giancarlo. Ciao Nicoletti. Buongiorno Nicoletti. Pronto? Come hai avuto la notizia? Ma io ho fatto un piccolo analisi. Sì. Il Papa come un padre, come io sono padre, e io non posso abbandonare il mio ruolo di padre per i miei figli. Lui invece lo abbandona per tanti motivi, giustificati e non, è come se fosse uno zio. E presente gli zii che stanno all'altere della famiglia, che non si sono sposati, che hanno una funzione sì di educazione, però possono scomparire da un momento all'altro. Ecco, questa è la funzione che mi ha dato l'impressione rassica, di uno zio importante ma non come il padre spirituale che doveva essere. Diciamo una sorta di sostituto del padre, lo vede come tale perché dice il padre rimane fino in fondo, non molla mai, il fatto che molla è lo zio che fa la valigia e se ne va. Sentiamo Marco, sentiamo. Sì, Nicoletti, buongiorno. Io sì, è vero, queste dimissioni daranno un segno ai prossimi pontificati. Quale? Secondo me, quello che non sarà più un papa legato alla fede e legato alla strada cristiana cattolica, ma sarà semplicemente un amministratore delegato di un'azienda. Ma non è un papa, però, scusi. Non so se lei è credente o non credente. Io sono credente, infatti queste dimissioni danno un taglio netto alla fede che hanno i credenti e i cristiani all'azienda che è diventata il Vaticano. Se lei è un credente, ogni volta che pronuncia il credo, che è la preghiera più importante del credente, sì, crede nella Chiesa cattolica, una santa apostolica romana, certo, e via dicendo, certo, cosa fa? Omette questa frase del credo? Pronto? Ho fatto una domanda eccessivamente pesante, Marco ci penserà. Piero? Buongiorno Nicoletti. No, perché dico, se uno è credente lo è fino in fondo, non può dire una cosa del genere. Non sono io che devo dare lezioni. Piero, buongiorno. Buongiorno. Allora, io intanto volevo fare una premessa. Sono d'accordo con l'ascoltatore precedente, nel senso che i papi, ma già da un po', sono amministratori delegati dell'azienda Chiesa, secondo il mio punto di vista. Io sono un ateo convinto, totalmente, cioè non sono credente, comunque rispetto chi crede in ogni caso. L'atteggiamento più civile, una persona che comunque rispetta e comprende ci possa essere anche una dimensione di trascendenza che lui non ha ma altri possono avere, è lecito che l'abbiano. Dubbio, però questo io sono convinto che lo abbiano più i parroci che non i papi. Comunque, secondo me, queste dimissioni del Papa sono da vedersi in una prospettiva storica, nel senso che in un momento di crisi sia economica sia soprattutto sociale che stiamo vivendo, io ho la sensazione che il prossimo Papa sarà un Papa molto più aperto, molto più progressista, diciamo, rispetto soprattutto ai temi sociali, cosa che Ratzinger non ha fatto, perché ha rappresentato secondo me il versante più conservatore della Chiesa. Lei dice che ci sarà una sorta di nuova riforma della Chiesa, essendosi dimesso un Papa che è passato come un Papa comunque molto legato alla tradizione. Questo è un suo punto di vista. Ignazio. Beh, io volevo esprimere il mio parere, perché ci sono due aspetti da considerare in queste dimissioni. L'aspetto teologico, perché è vero che è un Dio che ha mandato, come dire, il capo della Chiesa dicendo tu sei Pietro. Sì, ma eviti di mandare messaggi mentre parla, sennò... Scusi. Manda gli sms mentre parla. Sì, è vero. Dicevo questo, quindi diciamo che c'è questo aspetto teologico che va considerato, sì, perché se è vero che un Dio, diciamo, ha dato l'autorità, diciamo, con tu sei e su questa chiesa e su questa pietra edificherò la mia chiesa, quindi... E poi c'è l'aspetto storico, nel senso che se le prime comunità cristiane hanno eletto, perché ogni comunità cristiana all'inizio aveva adesso non c'è fare la storia dei papi. Nel diritto canonico è prescritto che il papa, se vuole, decide, si può dimettere, non deve chiederlo a nessuno il permesso, nessuno deve accettare queste dimissioni. Se il papa decide e pensa che in quel momento, forte del suo magistero, se ne debba andare, se ne può andare, quindi è inutile andare indietro. Donatella? Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, come la vede? Beh, io appunto la vedo che quest'anno è il 50° della morte di Giovanni XXIII, il Papa del Concilio Vaticano II. Quindi c'è un segno del destino anche no, lei. No, beh, può essere comunque, sì. Voglio dire, il Concilio Vaticano II che diceva di lei che la Chiesa deve leggere i segni dei tempi. E questo può essere anche un segno dei tempi, che il Papa fa una cosa che non aveva mai fatto, voglio dire, gli esempi si contano sulle dita di una mano, insomma. E poi volevo anche dire, in questi due giorni di di pessimismo, quantomeno da parte di molti credenti. E però diciamo, ma perché pessimismo? Perché pessimismo? Sì, pessimismo nel senso, perché non è stata presa bene questa notizia. Beh, uno mica, mica può uno dire è un momento di crisi, è chiaro che è un momento, sì, di crisi. Esatto, voglio dire, è un momento di crisi, insomma. Io dico, ma il Papa non è morto, il Papa, vabbè, il Papa non è morto, il Papa il 28, questo Papa non è più Papa. Certo. Però voglio dire, la sua presenza ci sarà ancora. No, questo Papa, anzi, meno presente meglio è dopo, è imbarazzante. Ma però, sì, posso dire? Sì, posso dire semplicemente che il nuovo Papa potrebbe avere un ex Papa, chiamiamolo così, al quale può chiedere un consiglio. Lei è credente, scusi, Donatella. Sì, no, ma un Papa non può avere un vice Papa, non è che non esiste. Non è mai stato. Carlo Maroni, Carlo Maroni, chiariamo questa cosa, perché non è ci saranno due Papi, ci sarà un Papa e un Papa che avrà ancora la fortuna o sfortuna di vivere ancora, ma dovrà essere più trasparente e invisibile possibile. Assolutamente, questo è quello che verosimilmente accadrà. Il 28 alle 20 Ratzinger scompare dai radar pubblici. Sì, però a 50 metri dall'altro Papa, praticamente. Questo è quello, 50 metri dall'altro Papa, ma forse per problemi pratici, perché se un Ratzinger, facciamo un esempio, andasse a abitare a Ratisbona o dove ha la casa sua in Baviera, sarebbe verosimile un assedio quotidiano dei media, quindi è, secondo me, l'abitare dentro le mura vaticane rappresenta Se andava sulle meteore in un'isola della Grecia, nessuno ci sono posti, penso che hanno... È che in realtà... Stavano già restaurando quel monastero di clausura dietro, sembra quasi che era già tutto pronto, stanno facendo la ristrutturazione in vista del trasloco. Una notizia abbiamo dato noi ieri sul sito sole24.com, abbiamo raccontato che la ristrutturazione andava avanti dal novembre, quindi ci pensavano. Che c'erano state mandate via, quindi anche questo è un segnale. È già tutto pronto per il trasloco, no? Diciamo che andrà lì anche padre Georg, è vero? Prego? Andrà anche padre Georg lì insieme a padre. È una cosa che è stata scritta, tendo a escluderlo perché padre Georg è un incarico di ministro, lui è un ministro della curia, prefetto di casa pontificia, quindi ha un incarico specifico, non è solo segretario. Lui, la nomina recente è stata una nomina importante e quindi è una nomina che, di cui si avvarrà il nuovo Papa, perlomeno ai primi tempi, poi deciderà a lui se tenerlo o cambiarlo, però Georg ha un incarico formale dentro la curia. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno, la pace sia con voi. Diamo un aspetto, farlo spiritoso. Sei qua perché mi interessa molto l'aspetto che hai trattato in un tuo libro di cui abbiamo parlato, Gesù e saldi di fine stagione. Perché la Chiesa non vende più, PM Edizioni, un libro che sembrava un libro dissacrante, però un libro molto serio. Ballardini, che è un esperto di marketing, comunicazione strategica, ha scritto un libro dove analizza in maniera molto concreta, da professionista, quali sono i punti nella comunicazione di se stessa in cui la Chiesa ha sbagliato, sta perdendo colpi rispetto a alcune altre religioni emergenti, molto meno sostanzialmente strutturate dal punto di vista del messaggio, molto più brava a vendere se stesse. In questa fase delle dimissioni del Papa, potresti aggiungere un capitolo in più al tuo libro? Sì, allora si potrebbe ripartire da qui, nel senso che io mi sono rifatto all'inizio a quello che diceva Hans Küng, il massimo teologo contemporaneo, che aveva dichiarato in tempi non sospetti Ratzinger ha fallito. Il discorso è esattamente questo, cioè non sono sicuro che Ratzinger abbia capito la lezione della inadeguatezza, cioè è molto diverso dal Papa di Nanni Moretti, perché quello di Nanni Moretti non voleva dall'inizio proprio ma poi alla fine ha il coraggio di un'assunzione di responsabilità. Ratzinger semplicemente si trova di fronte all'impossibilità di proseguire, ma non capisce probabilmente perché, o forse lo sa, ma lui non vuole mutare, perché è la rigidità che ha mostrato in tutti questi anni la causa principale del disastro. Quello che serviva, e che io ribadisco nel mio libro, è la necessità di una riforma totale della Chiesa, che lui non ha attuato. Quando qualcuno diceva occorrerebbe un Concilio Vaticano, queste sono le ultime pagine del mio libro dove io auspico un Concilio Vaticano terzo o 3.0, perché è fatto con i mezzi moderni, che non è stato fatto soprattutto perché Ratzinger era il primo oppositore, cioè lui non voleva dire ma non c'è bisogno di nessun concilio, per carità, mantenendo sul mercato un prodotto obsoleto. Senti, gli ultimi tentativi, diciamo, di patina di modernizzazione. Una delle cose che Socci, devo dire, è stato l'unico che l'ha analizzata nella sua reale crudezza. Il Papa su Twitter, ad esempio. Un giorno Socci, che è un giornalista, è una persona fortemente ispirata, ha una visione globale e teologica dell'esistenza, ha detto: ma scusate, siete pazzi, il Papa su Twitter, avete visto cosa scrivono? Una serie di insulti, parolacce, quello che normalmente fanno i troll su Twitter. Quello è l'uso incauto dei nuovi media, perché andare su Twitter è andare proprio in mezzo alla massa, alla ressa, dove tu puoi incontrare anche il teppista, può succedere di tutto, e non è che ci fai una bella figura, cioè non è detto, ti metti sullo stesso piano. È un canale che ha delle specificità, ma non facciamo teoria dei media adesso, il discorso è un altro. Queste innovazioni sono soltanto di facciata, perché non vanno a toccare il contenuto reale del prodotto, che è la dottrina, che andrebbe riformata. Questo è il problema principale. Fermiamoci un attimo, Bruno Ballardini, diamo l'informazione della borsa, è molto interessante, vediamo anche con Stefano Marroni, poi anche lui, come vede dal suo punto di vista, quest'ultimo disperato tentativo, proprio in attesa di quelle sarebbero state le dimissioni, che diciamolo chiaramente sembra che fosse già ampiamente elaborata all'interno perlomeno dell'istituzione, qual è il risultato, a cosa è servito e perché l'hanno fatto, se poi si sapeva che il Papa si sarebbe poi dimesso. Melog, la realtà condivisa. 800240024, prendiamo velocemente quello che stavamo dicendo sul Papa che si è dimesso, su quelle che sono le reazioni epidermiche da parte dei fedeli, dei credenti, di chi il Papa lo considerava una figura comunque inserita in un reale contesto di trascendenza, come vicario di Gesù Cristo, come grande mediatore, come pontefice fra cielo e terra, e chi invece ne analizza gli aspetti pratici, gli aspetti politici. Sentiamo due ascoltatori. Stefano, buongiorno. Buongiorno, sì. Grazie per avermi chiamato. Io sono profondamente disturbato, arrabbiato, non so come dire, ma deluso e tradito. Lei è un credente, tanto per capire il punto di vista. Io sono un credente come probabilmente lo è lei, cioè credo nel senso che ho un'educazione cattolica. Sì, siamo battezzati, comunicati, sposati in chiesa, esatto, abbiamo grande rispetto, ogni tanto ce ne ricordiamo. Bravissimo, ma... però io comunque vedo la figura del Papa come una figura guida, come un capofila di un qualcosa. E quindi mi aspettavo che, come Enrico Toti, in un fulgito gesto di coraggio e di eroismo, lanciasse il proprio bastone pastorale contro le orde nemiche che attaccheranno sicuramente la religione, il nostro credo, aprendo un fianco di debolezza nei confronti di tutti quei coloro i quali, giustamente, a ragione o a torto, si sentiranno in dovere di giustificare queste dimissioni con atti diversi, cioè con responsabilità diverse. Vabbè, adesso Stefano, è chiaro che ci deve essere una lettura mediata, una risposta. La risposta è circoscrivibile, sintetizzabile, il fatto è stato un gesto molto coraggioso, ha avuto coraggio di farlo. Però chiaramente il senso generale di chi la vede non è esattamente così. Anna Maria, velocissima, che devo far parlare Carlo Marroni, che poi deve andare via. Anna Maria. Sì, velocissima, non credente, ma molto rispettosa in questa Italia soprattutto. Dunque, questo Papa è sceso dalla croce quando sì, la Chiesa... È il luogo comune che oggi dicono tutti. No, ma questa che non che vuol dire non è sceso dalla croce? Quando mai era salito su una croce? Scusi, ma che vuol dire? dietro le parole ci vesta un contesto. Questo Papa succede a un altro Papa che invece la croce l'ha sopportata, così come la Chiesa richiede ai credenti, e mi riferisco alla... Ah, è sceso nel senso che non ha accettato, diciamo... Non ha sopportato... Certo, questo onere, questo peso così gravoso che lui ha dimostrato di non poter sopportare, quando la Chiesa chiede espressamente a tutti i cattolici di sopportare la croce in ogni fase della propria vita. Dalla croce, poi ripeto, la croce non si scende, perché sulla croce qualcuno ci chioda. Lo sa, capito? Perché ho detto quello, Anna Maria. Non vorrei banalizzare concetti profondi. No. Dalla croce nessuno scende, perché dalla croce ci si è inchiodati. Quando uno è inchiodato ci sta, evidentemente non c'era mai salito. E questo Papa sta dimostrando però che comunque sulla croce ci doveva stare, perché... Come dire, ma ripeto, sulla croce con la spiritualità, la scelta è arrivare fino all'ultimo, perché qualcuno ti ci mette, non ritirarsi. Ma una volta che ti hanno messo in croce ci stai. Carlo Marroni, velocemente, ricordo che ha scritto anche un libro, Le mani sul Vaticano, edizioni Rizzoli, un romanzo dove anche lì è una storia all'interno delle mura vaticane, in cui c'è un papa che è in fin di vita. In questo caso il papa non è in fin di vita, è malato, è stanco come ogni persona di età, però ha fatto un gesto che senti che suscita delle reazioni di vario tipo, ma quella che meno percepibile nel sentire comune, proprio quella, è stato un gesto di coraggio. È stato sicuramente un gesto di coraggio, per come la vedo io, nel senso coraggio di aprire una nuova strada, di dare una nuova prospettiva alla Chiesa. Il Papa dice non ce la faccio più, non significa solamente fisicamente, ma proprio chiaro, perché in un momento chiave per la Chiesa, con i mille problemi che ha, che ora non si deve rielencare, ma insomma tutte le crisi che ha subito, la pedofilia, le chiese vuote e quanto altro si può dire, ha detto serve una guida forte, certa, e apro la mia successione in un momento, diciamo così, in cui questa cosa non è traumatica, ma cioè, lui crea un trauma, ma diciamo lo gestisce. Quindi non, si è sentito all'altezza, questa è la sintesi. No, secondo me è una cosa, ora è difficile poi interpretare cosa dice il Papa, dice che è stato tale il problema di gestione della curia, perché questo poi è stato il vero problema, una curia che si è dilaniata al suo interno, ma non è che lo dico io, ha detto il Papa, citando San Paolo, ci si divora e ci si sbrana, ha detto 2 anni e mezzo fa, questa situazione andava interrotta. Ma lui non è il capo assoluto di tutto? È il capo assoluto, ma evidentemente... Nessuno è più plenipotenziario del Papa, che ha un mandato dal Padre Eterno. Certo, però sai com'è, poi sotto c'è un governo, la tesi che noi sosteniamo oggi sul Sole 24 Ore, peraltro non è solo a dirla, ma insomma è stato un teologo senza governo, è stato quello il suo limite, il suo problema, è stato un grande papa, ma con ovviamente un pontificato con dei chiari limiti da questo punto di vista. So che tu hai un impegno, grazie tanto Carlo Marroni. Fabio, grazie a voi. Fabio, ascoltatore Fabio. Pronto? Sì. Pronto, ecco, io penso che il Papa si sia dimesso per una questione, tra virgolette, mi capisca, di stile, direi quasi di fair play, perché dare un'immagine, perché appunto trasmettere l'immagine di due papi, e benché siano passati 8 anni, ancora è così vivida e fulvida. Ma è così convinto? Io questo non ne sono molto convinto. Non lo so, veda. No, no, è la sua convinzione. Comunque dare al mondo, anche diciamo all'urbe e all'orbe, anche quelli da convertire eventualmente, anche quelli da richiamare, l'immagine diciamo di una chiesa che è governata dai vecchi malati e che non ce la fanno, perché il Papa si è dimesso perché non ce la fa, per non ricalcare praticamente il percorso di Wojtyla. Sì, vabbè, indubbiamente, ma questo, attenzione, però mina poi anche la loro la loro portata dottrinale in riferimento ai punti, diciamo così, conservativi che difendono. Vabbè, cioè, Fabio, apprezzo il suo pensiero. Marco. Sì, buongiorno, sì. Salve, chiamo da Roma. Sì. Ma secondo me bisogna tentare di uscire, di andare in una logica diversa. Cioè, adesso è troppo facile. Sì, non dobbiamo trasformare l'analisi delle dimissioni del Papa, che è lecito farlo, ognuno ha diritto di farle, nel bar dello sport, che non dice la sua. È chiaro. Mi interessa il sentire individuale, come uno sente dentro di sé questa scelta. Poi le motivazioni le saprà lui, le sapremo forse in parte fra un po', cercheremo di capirle anche in questa trasmissione, ma è un po' difficile fare la partita è andata così perché è successo questo. Lei come l'ha sentita la cosa? Io, guardi, l'ho sentita in questo modo e la vedo in questo modo. Secondo me bisogna capire chi lo ha messo lì, mi consenta di usare questo termine, chi lo ha messo lì, che non sono i cardinali che hanno messo il voto, cioè che hanno scritto il nome. È qualcuno che sta dietro i cardinali, c'è sempre una longa mano, non sono i cardinali. Ah beh, lei c'è una versione a Dan Brown, esiste un potere occulto. No, il Papa, voglio dire, se si mette un determinato Papa, quel Papa ha una missione da fare, bene. Secondo però me sono i cardinali, eleggio, la loro volta sono espressioni di mille altre vicende, però sono i cardinali che lo votano il Papa. I cardinali fisicamente lo eleggono, ma ricevono delle pressioni. Ora di qua, beh, ogni cardinale rappresenta qualcosa, rappresenta una situazione. Determinate lobby, Quindi lei, qual è il suo disegno segreto? Chi l'avrebbe letto? No, io non dico chi l'avrebbe letto, io dico soltanto a chi faceva gioco e a chi non fa più gioco. Volevano evidentemente eleggere qualcuno che è contro la Chiesa, voleva eleggere un Papa ricattabile, purtroppo, perché questo Papa per 30 anni ha tenuto il tribunale dei delle quindi c'è una sorta di disegno di anticristo dietro per eleggere questo Papa, penso. E questo Papa è stato costretto per 7-8 anni a chiedere scusa a tutto il mondo. Ragioniamo un attimo su questo. Questo Papa ha chiesto scusa per l'Olocausto, ha chiesto scusa per le donne, per le 300.000 donne bruciate. E beh, non era giusto, scusi, perché non era giusto questo? Senza dubbio, ma questo Papa è stato mandato lì per chiedere scusa, ovvero per fare in modo che la Chiesa ammettesse i suoi errori. E in ultimo e concludo, questo Papa doveva concludere, gli è stato chiesto di concludere in questo modo drammatico, perché se si ascoltano le parole in italiano sono drammatiche, lascio perché non sono in grado di, e queste sono le parole che gli sono state dette, lui doveva trascinare la Chiesa in un contesto scandalistico. Ok, Marco, tutto questo è un suo punto di vista, ma chi è dietro? Qual è il motivo? Ma la Chiesa ha nemici. Ma ne faccio un nome, perché chi è così potente da condizionare l'elezione di un Papa? Ma in tutto il mondo non stanno attaccando i cristiani in Africa, in India. Ma chi? Eccetera, sì, ma tutto questo si concretizzerà in un nome, che è il potere occulto della massoneria, che ne so, l'Islam coordinato, la grande finanza internazionale. Chi vede lei come i satanisti? Chi vede come possibile nemico? Non lo so. Non hanno bisogno di fare queste cose. E allora Io credo che un altro potere che sta in difficoltà voglia indebolire il proprio nemico. Ma lei perché fa criptico? Lei, visto che ha espresso questa teoria, avrà in mente chi ha interesse a fare un disegno così sottile così, e ha questo potere per poterlo fare? E lo dica, mica rischia nulla, ho fatto varie ipotesi. Credo che sia Israele che desidera fare questo. Perché quando si è deboli, perché Israele in questo momento è debole sul scenario mondiale. Cioè, secondo lei, scusi, ma adesso faccio esprimere chiunque. Ma mi sembra un po' singolare, a meno che Israele abbia il potere di condizionare dei cardinali l'elezione di un papa che dovrebbe mettere in aspetto, diciamo, di sofferenza la Chiesa e poi dimettersi. Comunque, se lei pensa questo, che devo dire? Ognuno ha libertà di esprimere, grazie a Dio, i suoi pensieri. Melog, la realtà condivisa. 800240024, vedo che il gesto imprevisto scatena l'irrazionalità totale. Mentre un ascoltatore mi dice, secondo lui ci sarebbe un disegno occulto da parte di Israele di aver eletto questo Papa e dovrebbe mettere in cattiva luce la Chiesa, qualcun altro mi scrive, sembra di ascoltare Radio Islam, non so perché. Gianluigi Nuzzi, buongiorno. Buongiorno, a volte non ti invidio, No. Sentendo la tua pazienza. Ma non è pazienza, sai... Io mi interessa capire quello che realmente è il sentire generale, per quello che si legge sui giornali in realtà è una sorta di messa cantata abbastanza omogenea oggi rispetto a un fatto che è un fatto importante, è un fatto non singolare. Noi stiamo attraversando un momento storico unico in questo momento, dobbiamo rendercene conto. Però c'è da augurarsi che la maggioranza degli italiani non vedano Israele dietro il coro dei cardinali. Però se c'è qualcuno che lo dice, bene, che faglielo dire, così almeno egli stesso si rende testimone della sua follia, capito? Allora, San Gianluigi Nuzzi, ricordo che è giornalista Libero, ha scritto Sua Santità, Carte Segrete di Benedetto XVI, Chiare Lettere 2012, Vaticano S.P.A., da un archivio segreto La Verità sugli scandali finanziari e politici della Chiesa, Chiare Lettere 2009. Gianluigi Nuzzi è, diciamo, una persona che se tu non... fosse esistito, tutto sommato, il Papa sarebbe stato più contento, diciamo la verità. Io penso esattamente il contrario a questa presunzione, ma perché la presunzione non di un sionista, non sono riferendosi a prima, ma credo che per il comune sentire del libro che ho fatto, il comune sentire di chi mi ha dato parte delle carte come Paolo Gabriele, sia quello di raccontare unicamente quello che non funziona all'interno dei sacri palazzi, le vicende degli scontri di potere, le ricadute, questo sottolineo, sulla politica italiana che spesso noi sottovalutiamo, perché al di là della vicenda clamorosa, unica, della scelta questa scelta scioccante, no, del Santo Padre. Tu te l'aspettavi, Gianluigi, una cosa del genere? Assolutamente no. Quelli che se l'aspettavano, certo ci sono stati alcuni interpreti come Soci, come Ferrara, che un anno fa avevano fatto delle anticipazioni, L'arcivescovo di Palermo che aveva fatto questa anticipazione, cioè il Papa sarà ammazzato. È un'altra storia, però, perdonami, sì. un'altra filigrana, diciamo. Sì. Insomma. Queste anticipazioni io non me l'aspettavo. È anche vero, bisogna anche dire che questo Santo Padre, al di là delle questioni delle malattie o non malattie che sicuramente avranno accelerato delle scelte, si trovava a dover fare... Insomma, il discorso è questo: la Chiesa ha bisogno di scelte politiche oggi, di fronte alla carenza delle offerte, di fronte alla carenza delle vocazioni, alla diminuzione dei fedeli. Scelte importanti politiche. Questo è un Papa teologo che conosceva i propri limiti, certo. Non si fidava, ma questa è la mia interpretazione, permettetemi, non si fidava più di Bertone, che aveva coagulato contro di sé le tante anime, fra di loro anche lontane, della grande famiglia della Chiesa e delle fazioni interne del Vaticano, e quindi non conscio delle sue, dei suoi limiti e della sua missione, ha fatto quello che l'Avvenire con forza intitola l'umiltà di Pietro, no? Cioè il gesto di non lasciare ad altri il timone, di non condividere più il timone con altri che magari non erano così degni, ma di dare al conclave la responsabilità di individuare un nuovo interprete. Beh, una grande fede nella provvidenza, che dopo di lui verrà qualcuno capace, però. Beh, ma questo non puoi non pensarlo, cioè rispetto a tutto gli insegnamenti del pontificato, no? Cioè non si può pensare il contrario. Cioè di fronte le lotte intestine sono state importanti, sì, la cura romana ha avuto un peso, lotte così importanti, significative, dilanianti non c'erano forse mai. Chi è secondo te però, Gianluigi, che questa mattina tutto sommato si frega le mani, scusami il cinismo, che ha vinto la sua battaglia con le dimissioni del Papa? Nessuno, non esce nessuno vincitore? Ma io credo che non si freghi le mani, ma che un filo di sollievo e di speranza ce l'abbia Ratzinger e chi crede in lui. Perché chi coglie lo spirito profondo di questa scelta e capisce che questa scelta è per il bene della Chiesa. Per il bene della Chiesa Ratzinger ha detto: io faccio un passo indietro perché non sono capace, lo ammetto, non sono capace di, come dire, non ho il passo giusto per camminare e portare la Chiesa oltre queste onde, no? La barca di Pietro oltre queste onde. Vabbè, questo Gianluigi non si ha individuato quella che è un po' una lettura che non voglio dire giustifica, ma dà ragione di un Papa che si è dimostrato di avere il coraggio di dire non ero all'altezza. Però Bruno Ballardini, tutto questo nel discorso che abbiamo iniziato con te, alla luce anche di quello che ci ha spiegato mirabilmente Gianluigi, il messaggio che passa, poi sono questi ascoltatori che chiamano, o chiamano i pazzi che dicono ci sono i complotti internazionali, o chiamano quelli che dicono ma come, il padre lascia proprio nel momento del bisogno? No, allora qui c'è un problema, tutti si concentrano sull'atto finale, cioè le dimissioni, ma questo è l'ultimo dei problemi. I problemi sono precedenti, sono la crisi della Chiesa, cioè è una crisi, la più grande crisi storica dalla sua fondazione. Cioè, ci stiamo dimenticando. Le dimissioni la confermano, però. Le dimissioni la confermano, però non la risolvono. Non la risolvono. Ma perché se io dicevo a Nuzzi, dico, c'è una grande confidenza nella provvidenza, il Papa si dimette sperando dopo di lui verrà qualcuno che riuscirà a risolvere questi problemi, se no altrimenti... Allora, questo non si sa. Ha salvato se stesso, diciamo, ma non ha salvato la Chiesa. Si apre il Toto Papa, sì. Praticamente. Come abbiamo visto, siamo a questo livello da bar sport, perché il fedele medio... C'è sempre stato però il Toto Papa, solo sì. Il Papa moriva, il Papa è ancora vivo l'ex Papa, questa è la cosa terrificante. Qui ci stiamo dimenticando che la Chiesa ha una frammentazione interna spaventosa, che sono le sette, lo chiamano settarismo, stiamo parlando di comunione e liberazione, centri di potere come Opus Dei, come le Legionari di Cristo, che sono delle chiese nella chiesa che si fanno concorrenza sullo stesso prodotto. Ora, questa frammentazione serviva per invadere il mercato, che io e Mara Einstein siamo stati i primi, io penso il primo a parlare di marketing strategico, che non è apparato vendite, è strategia per invasione del mercato. Allora, sottolineo che non lo diciamo in tono denigratorio, ammesso. No, diciamo che è un'analisi concreta, visto che stiamo parlando dell'aspetto pubblico, l'aspetto aziendale della aspetto Chiesa. Gestionale. Stiamo parlando di ingegneria gestionale. Adesso i primi i sociologi della religione stanno ammettendo effettivamente quello che io e l'Einstein avevamo già affermato, io dal 2000. C'è una frammentazione interna. Di cui Nuzzi ha portato i documenti per primo, devo dire, onestamente. Poi ci sono i concorrenti esterni. I concorrenti esterni sono agguerritissimi. Cioè, abbiamo le nuove religioni, abbiamo vecchie religioni che si sono riformate, abbiamo dal sud del mondo sta arrivando il neopentecostalismo che è micidiale, abbiamo un sacco di problemi. E in più la Chiesa sta mostrando di essere inadeguata verso il modernismo, la modernità, cioè quello che sta arrivando. Fra poco avremo, lo dico da sempre, l'intelligenza artificiale. Come si comporta il codice etico cattolico verso una intelligenza artificiale? Quando avremo a che fare a considerare una nuova con un robot, una nuova suddivisione della coscienza, non è la coscienza biologicamente, genicamente generata. Vedo che il tema è importante, ci ritorneremo senz'altro. Grazie Gianluigi Nuzzi, grazie Bruno Ballardini, alla prossima. Melog, la realtà condivisa.